America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Beh, allora un piccolo sospiro di sollievo a Wall Street, perché i profitti dell'Alcoa sono andati abbastanza bene, perché l'Europa ieri si è ripresa e dunque anche l'indice Dow Jones è riuscito a recuperare dopo un po' di giorni di andamento negativo. Ha chiuso con un guadagno di 89,46 punti, un aumento dello 0,70%, siamo a quota 12.805, anche il Nasdaq è salito 0,84%, S&P 500 dello 0,74%. Dunque una pausa dopo varie giornate negative a Wall Street. Come vi dicevo, una parte dell'ottimismo è venuto dopo una buona ripresa delle borse europee, però c'è stato anche il Beige Book che ha rassicurato sulla crescita americana. Come ricorderete, il dibattito ormai è su quanto sta crescendo l'economia americana, e in una fase diciamo di crescita che si sta rafforzando o in una fase di crescita che invece si va indebolendo. Beh, e devo dire, il Beige Book della Federal Reserve, che è questo rapporto periodico sull'andamento dell'economia americana, è un rapporto che viene compilato sulla base dei rapporti di tutte le singole banche del sistema federale americano, quindi raccoglie 12 grandi zone, 12 distretti americani, con un approfondimento maggiore rispetto a quello che si può avere su un dato nazionale. Ebbene, il Beige Book, la Fed, è stata abbastanza salomonica, perché ha detto che la crescita dell'economia americana è da calcolarsi a cavallo di un tasso tra il modesto e il moderato. Ieri è stata una giornata piuttosto interessante per la borsa, perché si attendevano le reazioni di alcuni titoli che potevano essere a rischio. Devo dire che il Dow Jones è stato trainato soprattutto dai bancari, che hanno fatto molto bene. Vi ricordavo che si è aperta la stagione delle trimestrali, quindi qualcuno dice che gli operatori stanno già anticipando buoni risultati per alcune delle banche. E quindi che è successo? Bank of America ha guadagnato il 3,75%, Citigroup il 2,21%, Wells Fargo il 2,13%, JP Morgan Chase il 2,44%. Quindi buone notizie sul fronte dei titoli bancari. Invece una notizia curiosa che ha preoccupato o comunque creato un po' di agitazione nel settore high tech. Now, as a result of this alleged conspiracy, we believe that consumers paid millions of dollars more for some of the most popular titles. E il ministro per la giustizia Eric Holder, che avete appena sentito e che ha coinvolto l'Apple Computer in una causa di antitrust che riguarda gli ebook, i libri elettronici. Ecco, voglio parlarvi di questa cosa perché ha fatto molta sensazione ieri in America, perché è una di quelle cose che riguarda la nuova frontiera, riguarda la Apple, che è un nome che noi tutti ovviamente conosciamo, che moltissimi adorano. Ebbene, che cosa è successo? È successo che l'Apple Computer si è messa d'accordo con 5 editori per fare un cartello sui prezzi degli ebook, e l'Apple Computer riesce a vendere questi ebook attraverso i suoi iPad. E uno degli interessi principali in realtà per l'Apple era quello non tanto di fare un guadagno sui libri che vendeva, ma quanto di incoraggiare i consumatori a comprare più iPad. E dunque, così facendo, ha creato però una situazione concorrenziale svantaggiosa soprattutto per Amazon, che ha il suo prodotto, il Kindle, e ci sono poi altri distributori minori. Dunque l'inchiesta è stata annunciata, un'inchiesta reale, e Holder ha riferito che 3 editori si sono già messi d'accordo con il Dipartimento della Giustizia per un risarcimento che faranno a fronte di una richiesta di multa, quindi si sono messi d'accordo su una cifra, e che si comporteranno, tra virgolette, meglio nel futuro senza fare degli accordi preferenziali che vanno a violare le leggi antitrust. Holder ha però detto e confermato che l'istruttoria contro l'Apple Computer e contro 2 altri editori invece andrà avanti, perché non si è ancora trovato un accordo. Ecco, e dovranno andare a canossa, perché il Dipartimento per la Giustizia in America certamente non scherza. Per chiudere, infine, sul piano macroeconomico, una notizia dal Fondo Monetario Internazionale: la settimana prossima cominciano i lavori del Fondo, e una notizia, direi interessante, che viene da un rapporto del Fondo Monetario Internazionale, il Global Financial Stability Report, il quale rapporto sostanzialmente dice che c'è una diminuzione di offerta di titoli a reddito fisso di grande solidità, di garanzia. E c'è un grafico che dà un po' l'idea di questa cosa. In effetti, i titoli a AAA, che fino a qualche tempo fa potevano essere il 60-65% del totale, sono diminuiti e sono al 45% del totale. Quindi questo significa che il 55% dei titoli a reddito fisso che si possono comprare sul mercato non sono dei titoli, diciamo così, sicuri al 100%. Ma la cosa interessante è che in questo rapporto si dice anche che a questo punto nessun titolo è sicuro al 100%, perché anche i bond tedeschi o anche i titoli del tesoro americano potrebbero essere dei titoli a rischio, potrebbero avere dei momenti di incertezza e di instabilità. Un messaggio dunque non proprio rassicurante, ma anche un messaggio lapalissiano, perché è ovvio che non c'è niente di sicuro al 100%, qualunque titolo potrebbe essere a rischio, anche il titolo del tesoro americano. Quindi direi che la parte interessante di questo rapporto del fondo riguarda soprattutto un riallineamento, diciamo, del portafoglio più sicuro, del AAA, che è sceso al 45% del totale disponibile, totale peraltro che è stato stimato in 74.400 miliardi di dollari. Avete appena ascoltato uno stralcio di voci che, devo dire, a me dà abbastanza i brividi, perché è la conversazione del signor George Zimmerman, un vigilante che ha chiamato il 9-11, la volante, diciamo, per avvertirli che c'era un ragazzo che secondo lui era pericoloso e sospetto, e mentre parla al telefono descrive questo ragazzo, dice: l'ho visto che si muoveva, secondo me, dice, he's up to no good, è un ragazzo che non è qui per fare delle cose buone, si sta aggirando senza avere apparentemente una meta fissa. In realtà poi abbiamo saputo che Trayvon Martin era un 16-17enne che stava cercando la casa del padre dove doveva andare a cenare, e dunque evidentemente non era sicuro della sua direzione, e a sua volta questo ragazzo aveva visto questo vigilante e a sua volta si era preoccupato, dice: ma questo perché mi segue, perché mi guarda? Allora il destino ha voluto che nel momento in cui il vigilante parlava con la polizia, dice: è proprio qui davanti a me, è qui davanti a me. A quel punto la conversazione cade, e quel che sappiamo è che Zimmerman ha tirato fuori la pistola, ha sparato a questo ragazzo e lo ha ucciso. È diventato, come vi ho raccontato più volte, un caso chiave per le tensioni razziali americane. Sarà un caso che probabilmente avrà risvolti anche in campagna elettorale, e proprio ieri il procuratore Angela Corey ha annunciato che Zimmerman è stato incriminato. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno, i biglietti del festival Lollapalooza, uno dei più attesi eventi musicali dell'anno. Sarà quest'estate a Chicago, ci saranno fra gli altri i Black Keys, e dunque di Black Keys vi faccio ascoltare Gold on the Ceiling. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.